Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini. Il martedì trovarono i cantieri serrati. Ci stava di guardia un caporale o addirittura uno dei sorveglianti di notte che protraeva il proprio turno. C'era Crispi nel cantiere di via 20 Settembre, lui solo. Si potevano immaginare l'ingegnere, l'assistente e Nardini chiusi dentro la direzione, ma non si videro, né dettero un segno della loro presenza. I scioperanti stavano in fila, addossati alla massicciata, come giorno avanti. Quando furono le 8, Crispi batté i soliti colpi della spranga di ferro che fungeva da sirena, ma nessuno si mosse, ed egli tornò a sedersi su una cassa là fuori, e accese il mezzo toscano. E siccome scosse la testa, alcuni dei muratori lo imitarono. Poi lentamente risalirono la massicciata. Tutto era accaduto in silenzio. Non si era alzata una voce. Crispi li spiava mentre se ne andavano, senza darla a vedere. La sua indifferenza aveva l'aspetto di una provocazione, più che si fosse messi in piedi sulla cassa e li avesse insultati. Ma era il secondo giorno appena. Gli animi erano saldi. Essi quasi si divertivano a considerare la posa di mastino e il viso di lepre del caporale, più brutto del cane lupo disteso all'ombra e addormentato dopo aver fatto nottetempo il suo dovere. Non c'era paragone. E fu proprio il più vecchio e saggio tra loro, Lippi, il decano, che dall'alto della massicciata, toltasi un momento la pipa di bocca, gli fece il verso. Quindi si radunarono sotto la fortezza da basso, provenendo da diversi cantieri, come il giorno prima, e chi indugiò sulle panchine del giardino, chi passo passo, secondo le destinazioni, a squadre di 3, di 4, coloro che abitavano in campagna, malgrado il sole, presero la via di casa, poiché, essendo in sciopero, gli appaltatori non gli consentivano di pernottare nelle baracche. I più giovani, cappeggiati da Bixio Falorni, siccome il mugnone che gli aveva suggerito l'idea, così in secca com'era, non gli conveniva, decisero di andare a bagnarsi in Arno. Altri, infine, non più ragazzi e cittadini, si erano dati appuntamenti in un'osteria di Porta a Prato. Dopo una certa ora sarebbe capitato del buono, insolitamente preso quella mattina da un problema tutto suo, privato. Gli era spuntato, a 45 anni suonati, il dente del giudizio, e aveva deciso, non resistendo al dolore, di farselo cavare. Quando arrivò, reggendosi la gota, lo costrinsero a fare tanti sciacqui di vino per disinfettare la gengiva che quasi lo ubriacarono. Lippi, lui era bell'e partito. Non sapeva più se fare i brindisi ai franchi muratori caduti durante la comune o a Filippo Brunelleschi, murator de muratori. Col passare delle ore, egli diventava, oltre che sacrilego, scurrile. L'unico modo di venirgli in aiuto fu di invitarla a declamare le poesie sporche di Bamba, che conosceva a memoria, come un po' tutti del resto. «Lippi, dici la confessione! No, dici i meriti della città di Firenze! Dici la carità!» Il decano appoggiava il gomito sul tavolo, tenendo alto nella mano il bicchiere di vino, strizzava gli occhi e declamava. «Dice, andate con Dio, razza d'un cane! Chi mi ha chiesto d'andare con qualcheduno? Io, Dio, gli ho chiesto un po' di pane, perché, Madonna, io ero digiuno!» Trovarono sera sotto la pergola e avevano fatto circolo. C'erano quegli operai delle officine meccaniche e i barrocciai e le guardie del Dazio. Un suonatore ambulante prestò la chitarra e ci si mise a cantare. Aminta, come tutti, aveva il vino buono, alzava il bicchiere e improvvisava. Andavano contro i preti, contro i suoceri e contro i padroni, nell'ordine, i suoi anatemi. Poi fu la volta del tedesco, il quale, dal momento che non si lavorava, si era adattato anche lui a bere, malgrado non fosse ancora buio e non era rimasto secondo a nessuno. Egli dominava la compagnia con la sua mole e più con la sua voce roca, profonda, miracolosamente intonata, che teneva su la nota alla chitarra mentre Aminta cantava un babba, finché, trascinato dalle circostanze, vermiglia in viso e sotto una risata chiese e ottenne il silenzio per l'assolo. «Questa non la sapete di sicuro!» gridò. Si era alzato via via che cantava. Era un motivo lento, dolcissimo, e lui dondolava la testa e socchiudeva gli occhi, ma con impennate improvvise, e lui si ergeva in tutta la sua altezza, sgranava gli occhi, picchiava il pugno sul tavolo. Li intimorì tutti. e quando ebbe finito, prima di sentire scrosciare gli applausi, ci fu un momento di esitazione. «Sarebbe Wagner?» gli chiese Metello. «Wagner non mi piace. E che ne so se è Wagner? La canta sempre mia moglie, è una canzone d'amore». «Ah, e cosa racconta?» «Mo? Sì, il tedesco lo so, ma arrangio. Ci sono stato 10 anni in Germania, ma queste parole mi restano un po' oscure. Allora, Liebe vuol dire amore, Son vuol dire sole, Gluck è felicità, felicità, felicità, felicità!» E si ricominciò a bere. E l'inno dei lavoratori e le strofette su Menelik e Baldissera ridiedero vita al coro. Anche Olindo, che avrebbe dormito a casa di Metello, si fece onore. Gli anni trascorsi in miniera gli riportavano alla memoria non soltanto l'aria, ma addirittura alcuni versi dell'Internazionale. Declamò «Le premières balles seront pour les généraux». «Le prime palle sono per i generosi», tradusse. E questa sua versione, data in buona fede, gli meritò un'ovazione, in quanto essa esprimeva una verità che li trovava concordi e li entusiasmava. «Più internazionali dei muratori, chi c'è?» si gridava. «Quello sa il tedesco, questo parla francese, io il napoletano», Metello disse. E dove cantare mare chiaro e dire una bugia, che quella finestra esisteva, lui l'aveva vista, chiedendo il permesso, ci si poteva affacciare. Non era un giorno di sciopero, era un giorno di festa. I giovanotti facevano il bagno nel fiume. Essi si pigliavano la loro vacanza sotto una pergola d'osteria. Del buono medesimo, la cui figura col tempo sarebbe entrata nella storia, passatigli il dolore, un po' ebbro qual era, si tolse gli occhiali e tenne in piedi sul tavolo, sorretto alle spalle dal Metello e dal tedesco, uno dei più bei discorsi della sua carriera. Lo applaudì anche il tenente delle guardie, giunto per la scena che consumava a un tavolo riservato. Quindi gli operai delle officine meccaniche, che erano i più saldi nelle gambe, lo portarono in trionfo lungo via del Prato e promisero la loro solidarietà ai muratori. E come Metello ospitava Olindo, Lippi portò con sé in comune di Bagnaripoli, dove abitava, proprio sotto l'arco del Camicia, Aminta Donnini, che non aveva casa e gli era proibita, per via dello sciopero, la baracca del cantiere. «Ci deve avere una branda, della Sistem», gli disse il decano. «E ci dormiva l'ultimo dei miei ragazzi, ora anche lui si è sposato. Non ha avuti 3, tutti maschi, ma l'ultimo è stato il più furbo. Lavora alla Pignone, tornitore. Uno è morto di 16 anni, di tifo. In mezzano fa lo stradino, salire sui ponti non gli piaceva nemmeno a lui ed è sempre stato di spalla tonda. Preferisce far quel mestiere. Dipende dal municipio, prende 3 centesimi ed è pieno di figlioli. Vieni, Aminta, vieni. La notte, se ti gira, puoi andare a trovare tua moglie, quanto ti pare. E cosa c'è da Ponta Ema all'arco del Camicia? 4 o 5 chilometri, conoscendo la scorciatoia. Una deviazione!» Questo fu il secondo giorno, e il terzo, il quarto, ma già non si radunavano più all'osteria. Nessuno aveva ancora dei soldi da scialare in vino, e si compì la prima settimana, e poi 10 giorni, e poi 13, fino a raggiungere, senza defezioni, la seconda settimana di sciopero, il secondo sabato senza salario. Ogni mattina essi andavano sui cantieri, ma raramente c'erano i padroni, e comunque non si poteva avvicinarli, non lo permettevano. C'erano gli assistenti, c'erano i caporali, coi quali era meglio non parlarci per non venire alle mani. Cotesto sabato trovarono un cartello, dappertutto uguale, che diceva «Ultimo avviso. La manodopera che lunedì PV tornerà in cantiere avrà lavoro assicurato per tutta la stagione. Gli oltransisti si possono considerare licenziati. La riassunzione comincerà a partire dalla settimana dopo e verrà vagliato caso per caso. La direzione». Sul mezzogiorno tornarono a Monterivecchi. Si ripeterono d'essersi sbagliati nel giudicare i padroni disposti alla capitolazione. Era per il contrario e decisero di non prendere iniziative. Sarebbe apparso come un segno di debolezza da parte loro. Ma solo che i padroni avessero lasciato intravedere una disposizione a trattare, li sarebbero andati incontro senza ripicchi, magari diminuendo di 2 soldi le richieste e con tutta la buona volontà di arrivare a un'intesa. Poi, guardandosi intorno, Qualcuno si accorse, questo qualcuno fu del buono, che l'unico tra loro che aveva preavvertito di arrendersi comunque all'inizio della terza settimana mancava all'appuntamento. Ma subito quelli che venivano da Scandice di sopra Vingone garantirono che il giovane Falorni non avrebbe fatto il crumiro. Lo si era perduto come scioperante, ma anche come muratore. Durante quelle due settimane, un po' per non rimanere inoperoso, un po' per non mangiare a ufo, era andato sui campi coi parenti e gli si era risvegliato l'amore per la terra e per la ragazza con la quale anni prima era stato fidanzato. Costei apparteneva a una famiglia di coloni della stessa tenuta delle case e i suoi genitori, per dare il loro consenso, avevano rinnovato la condizione che egli lasciasse il mestiere e tornasse contadino. Era stata tutta una congiura tra la ragazza e i genitori di lui e di lei, e lui c'era cascato. Ma perché cascarci gli faceva piacere? Tanto il mestiere dalle mani non me lo leva nessuno, aveva detto, e la città e i cantieri restano sempre lì, a 2 ore di cammino. Ora, tramite quei compagni, egli mandava a tutti i suoi saluti e gli auguri. Fu sotto questa bandiera, dai colori vagamente nuziali, che al tramonto i muratori si ritrovarono uniti e in fila davanti ai cantieri. Essi avevano il cuore gonfio di speranza e stretto dal timore. Per questo, anche ai più temprati, e senza che se ne accorgessero, il cuore batteva in fretta, come a un autore la sera della prima o a una ragazza innamorata. Non era gente capace di simulazione. Bastava osservarli come si avvicinavano per capire le loro intenzioni. Gli impresari erano ad aspettarli questa sera. E dal modo con cui li accoglievano e li guardavano, anche senza aprir bocca, sembrava gli dicessero: «Abbiamo perduto 12 giorni. Questo ritardo sui lavori ci porterà un danno di qualche migliaio di lire. In compenso, abbiamo risparmiato di far le paghe. Ora torniamo a casa e troviamo la tavola apparecchiata. Noi siamo nelle condizioni di poter aspettare. E voi altri, a casa, voi altri, stasera, cosa trovate?» Badolati, lui stava sulla porta della direzione, fra i suoi 3 scudieri, col cappello tirato indietro e la giacca ad alpagà che gli andava larga e lunga come la cacciatora d'inverno. Di mezzo alle labbra gli pendeva, spenta, la cicca di Toscano. Il nipote assistente finiva una spagnoletta e ne cavava un'altra dall'astuccio. Crispi era lesta a porgergli lo zolfino. «Ve, le faine!» disse il decano. Tuttavia i muratori non temevano né il suo atteggiamento né i suoi sguardi, né la provocazione che restava sottintesa, ma se stessi, il compagno che gli era vicino, il proprio cuore e il suo, che a un certo momento poteva salirgli in gola e deciderli tanto alla capitolazione quanto a un gesto sconsiderato. Mentre il padrone scrutava loro, essi si scrutavano l'un l'altro, come diffidando e incoraggiandosi e tenendosi a bada. Era il loro modo di ritrovarsi concordi e solidali. Del buono li avrebbe rincuorati, ma egli non poteva avvicinarsi ai cantieri. La legge glielo proibiva. Solo che fosse apparso, gli impresari avrebbero potuto farlo arrestare. D'altronde, essi pensavano, se c'è una possibilità, Salani saprà sfruttarla senza forzare la situazione. Anche lui è un capo di famiglia, cipressino. Essi non avevano molta fantasia, ma se fossero riusciti a spiegarsi cos'era che si aspettavano, avrebbero dovuto rispondersi che per prima cosa si aspettavano di veder Crispio o Nardini metter fuori la cassetta e l'ingegnere incominciare a far le paghe. Questi bestemmiatori segretamente confidavano nel miracolo. Era sabato sera, e tornare a casa una seconda volta senza il salario gli pareva innaturale, dal momento che il lavoro esisteva, era lì. I muri non chiedevano che di essere prolungati e gli infissi messi in opera, le pareti decorate. Il senso della responsabilità li opprimeva, e come il calabrone che adesso ronzava in mezzo a loro, un pensiero importuno gli ballava nel cervello. Dovevano richiamarsi alla mente una per una le ragioni per cui erano scesi in sciopero, e che, quello stesso mattino, a Monte Rivecchi, si erano ripetuti. Ma codesto pensiero non li abbandonava. Se avessimo lavorato, ora si farebbero le paghe. e per poco e insufficiente che fosse stato, avrebbero riscosso un salario, non sarebbero tornati a casa a mani vuote. Le faine, ve! Lorenzoni aveva acchiappato il calabrone che gli girava attorno al viso. Si avvicinò, il pugno all'orecchio per udirne il ronzio. E invece di tirar fuori la cassettina delle paghe, a un cenno dell'ingegnere, Crispi mise il lucchetto alla porta della direzione. Essi stavano in fila sotto la massicciata, in silenzio ora. L'ingegnere, seguito dal nipote, se ne andò, come ignorandoli, rasente il cantiere. Il cielo era tutto rosso e sulla strada ferrata c'era una locomotiva che faceva manovra. Renzoni Piccolo ripose in tasca il fazzoletto in cui aveva avvolto il calabrone, e mentre l'ingegnere passò loro dinanzi, i muratori guardarono Metello. Durò qualche minuto, il tempo che l'ingegnere impiegò per raggiungere l'angolo di via Vittorio, e non di meno fu una tensione, uno spasimo comuni che attraverso codesti sguardi vennero a confluire su Metello e lo turbarono. Egli comprese che se avesse richiamato l'ingegnere per annunciargli la loro capitolazione, nessuno dei suoi compagni lo avrebbe sconfessato. Comunque, tutti li sarebbero stati segretamente riconoscenti. E si sentì solo, con pochi isolati sodali dietro di sé. Non Olindo, certo, che poteva esortarla a un perdono, non Lippi, che lo guardava come per ricordargli di non essersi voluto già da prima caricare la coscienza di questo peso, e non Aminta, esaltato dall'ira e pronto a raccogliere un sasso e a scagliarlo, a scagliarsi egli stesso contro l'ingegnere. Non il tedesco, infine, nemmeno. Butori si tolse di bocca il filo d'erba d'avena e di nuovo tornò a masticarlo. Fece un cenno d'assenso, che era un invito a prendere una decisione, più che la conferma di un proposito. Alzò le sopracciglia e per un momento dondolò il suo grosso corpo sui talloni. Forse erano interamente con lui il piccolo Renzoni, che lo fissò coi suoi chiari occhi, la mano nella tasca a trattenere il calabrone, e qualche altro degli oscuri compagni che meno egli teneva in conto di amici, e che adesso sembravano chiedergli di sostenerli, mostrandosi sicuro di sé, sereno, padrone dei propri nervi e della situazione. Nel giro di quei secondi, Metello incontrò lo sguardo di ognuno di loro, e uno per uno, dietro i loro visi, di ciascuno gli balenò la storia. Ecco. C'era Meoni, lo si chiamava il Santino, era di Pelago, era un manovale. Si sapeva che la domenica andava in chiesa, aveva le proprie idee. Gli era nato un figlio da pochi mesi e gli aveva messo nome Albertario. Spesso gli diceva, anche a te, Metello, cosa ti ci vorrebbe per essere un bravo cristiano? Un po' di buona volontà. Lo potresti proprio giurare che non credi nell'esistenza di Dio? Lui gli rispondeva con un motto di spirito, a volte con una bestemmia per farlo irritare, ma anche per vincere l'imbarazzo in cui quella domanda lo poneva. C'era Leopoldo. Aveva la sua età, poco più. Soldato di leva, l'avevano mandato in Africa, e appena sbarcato si era preso uno di quei mali di laggiù. Andavo di corpo ogni due minuti, diceva. Era stata la sua fortuna. Della sua compagnia, i mori di Menelicche ne avevano fatto schiacciata. Era tutto quello che si riusciva a fargli dire. Pronta a entrare in una discussione su ogni altro argomento, su questo che lo riguardava ne parlava malvolentieri. Come non parlava mai di casa. Si sapeva che gli era morta la moglie l'inverno prima, di che i medici sembra dicessero le è venuta a mancare il cuore, non c'è altra spiegazione. E gli aveva lasciato tre figlioli, il più grande di 4 anni. Glieli badava la cognata, che all'epoca della disgrazia stava per sposarsi e aveva ritirato la parola. Della sua avventura d'Africa, ecco, tutt'al più aggiungeva, c'avevo tanti amici nella mia compagnia, poveri ragazzi, e povero anche il colonnello De Cristoforis, un babbo, un santo. Ma che del buono, gli poteva stare a pari. Ce n'è di gente per bene, anche nell'esercito. E come? Tra Leopoldo e il Santino vedeva Friani. Era del Galluzzo e un buon muratore ormai. Metello se lo ricordava aiuto manovale nella squadra di suo suocero, quando costruivano a Romito. Dianzi, di ritorno da Montelivecchi, si erano trovati vicini. E Metello gli aveva chiesto, fosse vivo mio suocero, Friani, che ci direbbe? Che siamo ubriachi, ma non che facciamo male, no, di certo. Sarebbe qui con noi, ma non ci approverebbe. O chi era tuo suocero, Metello? Gli aveva chiesto il piccolo Renzoni. Come la pensava? La pensava da anarchico, la pensava bene, gli aveva risposto Friani. E siccome Metello continuava a guardarlo, Friani gli aveva detto: «Io sono rimasto di quelle idee, non lo sapevi?» E poi Duili, era il sesto alla sua destra, nella fila così schierata. Di già anziano sulla cinquantina, c'era qualcosa di romantico nella sua vita. Dopo il 70 era andata a Roma, come tanti altri, perché là c'era lavoro, come c'era stato in Firenze capitale. E la fidanzata, stanca ad aspettarlo un anno, due, si era sposata con un verniciatore. Duili era tornata apposta e, come un siciliano, l'aveva assalita a coltellate, ferendola appena, tuttavia, contro le sue intenzioni. 6 anni di prigione, la vigilanza, e in seguito non si era più mosso. Scapolo. E come se lei non fosse mai esistita. Se la incontrava, vedendola di lontano, cambiava marciapiede. Erano passati 20 anni. Lei era vedova da poco, vestita di nero. Lui la fermò. Viveva sola, coi 3 figli minori. Duili ci andò ad abitare insieme. Era diventata la sua famiglia. I ragazzi lo chiamavano babbo, ma non l'aveva voluta sposare. 10, 30, tanti quanti erano, di ciascuno Metello poteva immaginare il ritorno alle case quella sera, il secondo sabato senza portare niente di salario. E si avvide che tutti, nessuno escluso, inconsciamente magari, gli chiedevano di assumersi da solo la responsabilità di continuare lo sciopero. Poi essi avrebbero condivisa cotesta responsabilità, ma perché lui, col suo atteggiamento, ve li avrebbe costretti. Tutti, coloro che conosceva, di cui era amico, e gli altri dei quali, pur lavorando insieme nello stesso cantiere, sapeva poco più del nome. La maggior parte veniva dalla campagna. Erano di Scandicci, del Galluzzo, di Bagnarripoli e delle Tavarnuzze, di Dicomano, dell'Impruneta. Si parlava di politica, di donne, dei figlioli. Ci si offrono e si paga una mescita, ci si arrampica sui ponti con lo stesso pericolo e lo stesso sudore, a metterle in palcature, a tirar su i muri, a intonacare, a stuccare, a imbiancare. Si sta in fila il giorno della paga, si bestemmia che non ci basteranno codesti soldi fino al martedì, e d'un tratto c'è da averne paura. Ecco, il nonno della fila, incominciando da Mancina. Chi è? Come si chiama? Pomero, sì, è di Fiesole. Ha alzato anche lui la mano 2 domeniche or sono in riva al Terzolle. E da casa stasera troverà 5 ragazzi a scala, come i diti della sua mano. Ci guarda, ed è un po' anche il suo immediato destino che si decide. Per un lungo istante, Metello fu tentato di rifiutarsi a questo impegno. Egli era uno dei pochi che, rispetto alla generale povertà, all'indigenza in certi casi, poteva dirsi un privilegiato. Aveva a carico una piccola famiglia. Ersilia guadagnava anch'essa qualcosa, forse per questo egli non dubitava? Del buono medesimo che al di sopra di lui li dirigeva, con che diritto li dirigeva? Bastian era bravo, disinteressato, un angelo rosso, l'angelo senz'ali, viveva con nulla, voleva il loro bene, e tuttavia che ne sapeva della loro fatica, del loro ritorno a casa a mani vuote? E Corsiero e Giannotto, si chiese, come si comporteranno negli altri cantieri? Questo lo decise. Nel momento in cui stava per richiamare l'ingegnere, ormai già in fondo alla strada, il pensiero che per colpa sua, per via di quegli di Badolati, la compattezza dello sciopero sarebbe potuta venir meno, lo risolse a mantenere l'impegno, ad assumersi la responsabilità che quegli sguardi parevano avidi di rimettergli. Il fiato che gli si era spento in gola tornò a liberarsi in un ampio respiro. «Figlioli», disse, «è più dura di quel che si credeva». D'un tratto, Aminta, che gli era accanto, raccolse una pietra e fece per staccare la corsa e aggredire alle spalle Badolati. Metello l'afferrò per un braccio e con ferocia, mentre i compagni gli si raccoglievano attorno, glielo storse. Aminta si piegò sui ginocchi, bestemmiando, e lentamente sotto la stretta dischiuse la mano. Il sasso ruzzolò contro la massicciata. Renzoni Piccolo gridò: «Attenti, l'ingegnere ha cambiato idea!» Badolati era a pochi metri da loro, il nipote sempre al suo fianco, e vedendo il padrone tornare sui propri passi, anche Crispi e Nardini, che avevano assistito alla scena, si erano fatti avanti. I muratori si disposero a semicerchio, con Metello al centro, tra Aminta e Lippi, che succhiava il cannuccio della pipa e che disse: «Oh, sentiamo, ora su!» Thank you. L'ingegnere era furente. Tuttavia, quando parlò, si poté intuire una baldanzosa speranza nella sua voce. Il suo tono brusco, perentorio, era come velato da una fraterna condiscendenza. «Non sentiamo, voglio sapere perché vi picchiate!» «Nessuno si picchia», gli rispose Metello. «Ti ho visto, Don Nini mi voleva parlare e tu gli sei saltato addosso. E come Don Nini, chissà quanti hanno intenzione di tornare al lavoro. Se cerchi di impedirglielo, commetti un reato, lo dovresti sapere. Ti ho protetto per degli anni dalla questura, ma questa volta non ci penserò due volte a denunciarti, proprio io!» Così dicendo, fissava Minte e gli altri più che Metello, a cui erano rivolte le sue parole. E contrariamente a quanto si attendeva, incontrava visi ostili o stupiti. «E allora, Don Nini?» La Minta stava a capobasso, si schiacciava le mani una nell'altra. «Non mi faccia domande», mugolò piuttosto che rispondere. «Aminta si è sentito male, perciò è cascato», disse Metello. «E perché si sarebbe sentito male?» Ma intervenne Crispi. «La verità, signor ingegnere, gliela dico io!» D'improvviso, più inatteso che se fosse riapparso il sole sul cielo ormai scuro, Lippi, il decano, gli scagliò contro la sua pipa, lo colse sulla fronte, e nello stesso tempo si chinò, prese una manciata di polvere e da un passo di distanza, e la buttò negli occhi gridando «Dannato! Farabutto! Spia!» E ancora agitandosi tra le braccia del tedesco, che lo trattenevano, quasi sollevandolo da terra, continuava a imprecare, a sputare contro il caporale. Questi, accecato com'era dalla polvere e dall'ira, aveva cavato la pistola e sicuramente avrebbe sparato, se nello stesso istante i soli tra i presenti che si erano mantenuti padroni dei propri nervi, Metello e il tedesco da un lato e l'ingegnere dall'altro, non gli fossero saltati addosso e non l'avessero disarmato. Quando l'assistente uscì, anch'egli armato, dallo sgabuzzino della direzione, comprese che il suo intervento non era più necessario. I muratori, piuttosto che stringersi, avevano come allargato il cerchio, al centro del quale, accanto a Crispi, a Metello, al tedesco e all'ingegnere, c'era Nardini, che prese il suo collega per un braccio e lo condusse fino al bidone dell'acqua. Quindi gli spinse dentro la testa affinché, come disse, oltre che lavarsi gli occhi, si facesse passare i bollori. E rivolta al giovane assistente, «Dia retta a me», gli disse, «lo riponga a codesta arnese. È gente presa dalla disperazione, non sono degli assassini». Alessandro Benvenuti ha letto Metello di Vasco Pratolini. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it